Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Era il 1970, quando la marmotta di Cavriago, alias Orietta Berti, cantava le note spensierate di Finché la barca va. L'aria della provincia di Reggio Emilia in quegli anni, evidentemente, era intrisa di una qualche magica sostanza che rendeva armoniose le voci delle sue giovani abitanti. Giusto l'anno prima, infatti, un'altra ragazza era salita alla ribalta vincendo il Festival di Sanremo con il brano Zingara. Guarda nei miei occhi! La riconoscete, eh? È l'Aquila di Ligonchio, l'inconfondibile Iva Zanicchi. Anche lei viene dalla provincia emiliana. Ligonchio è un paese minuscolo situato sull'Appennino tosco-emiliano, al confine con la regione toscana. E Iva, detta l'Aquila, partita da Ligonchio con furore, è arrivata a calcare i prestigiosi palcoscenici della Carnegie Hall e del Madison Square Garden di New York. Un successo fulmineo il suo, seguito rapidissimamente all'esordio in un festival itinerante dalle parti di Bologna. Una partenza quasi in sordina, che ricorda quella di un'altra grande interprete approdata dai palcoscenici di Rivarolo del Re, 40 km a est di Cremona, a quelli più importanti d'Italia. Lei è la Tigre di Cremona e in America non ci è arrivata per un'unica semplice ragione. Si è sempre rifiutata nella maniera più ferma e categorica di prendere l'aereo. Naturalmente l'avrete capito, la Tigre di Cremona altri non è che la splendida Mina. La Mazzini, all'inizio degli anni 60, visse una rivalità mediatica con un'altra felina proveniente dall'Emilia-Romagna, la famosa Pantera di Goro. Eccola qui, intervistata in TV da Paola Perego. Ma questa rivalità tra di voi esisteva o no? Ma no, ma non è mai esistita. Perché tu sei una donna sincera, se tu ce lo dici io ci credo. No, ma come avrebbe potuto? Sappiamo tutte e tre, io forse il colore di voce più vicino a quello di Iva. Sì. Che non a quello di Mina. Mina ha sempre avuto una voce straordinaria, la più brava delle tre, però io ho studiato molto anche altre cose, esempio Brecht, io certo. Mi sono veramente, ho detto qui devo farcela a fare queste cose di teatro che sono straordinarie, ma Mina era la più dotata e lo è sempre stata. Però non c'era nessuna rivalità, perché io mi rendevo conto che di avere una bella voce, una voce importante, ma la mia voce era almeno due ottave sotto quella di Mina, che poteva salire con grande comodità. Lei è la cantante più rossa che l'Italia abbia mai conosciuto, rossa di capelli così come di idee politiche. In questa intervista forse vi è sembrata mansueta, ma nella sua carriera è stata capace di prese di posizione strenue e irremovibili. Lei è la feroce Pantera di Goro, la grande, unica, Milva. Vengo con te, La pantera di Goro, la tigre di Cremona, l'aquila di Ligonchio e persino la marmotta di Cavriago. Abbiamo appena appurato che non si tratta di animali più o meno pericolosi fuggiti dagli zoo dell'area padano-emiliana. Si tratta molto più semplicemente dei soprannomi dati ad alcune grandi donne della canzone italiana, a quattro interpreti che a partire dai primi anni 60 hanno riempito l'etere del bel paese con i loro gorgheggi. Tutte hanno preso strade diversissime tra loro. C'è chi è finita in TV, chi in politica, chi si è ritirata dalle scene e chi è diventata testimonial di qualche compagnia telefonica. Milva forse è quella che ha scelto il percorso più complicato. Io la pantera, indipendentemente dagli animali, credo che siamo esseri pensanti, e proprio per questo, quando si è, credo, artisti e non venditori di sapone, si ha ancora voglia, si ha sempre voglia di mettersi in gioco. Abbandonata la strada della musica leggera e della canzone pop italiana, Milva si è messa a servizio del teatro e dell'arte in senso più ampio. Una via certamente più difficile, ma ricca di grandi soddisfazioni. E pensare che tutto era cominciato in qualche sgangherata balera di provincia. Goro, in provincia di Ferrara. Un paese dove non lotta solo la gente, ma lottano anche le case. Lottano contro le ambizioni e le pretese dell'acqua, che a Goro è dappertutto. Ci sono un mare lì davanti e un fiume lì dietro a ricordare agli abitanti e alle loro abitazioni ogni santo giorno il posto che gli spetta. A Goro gli antichi sistemi di regimazione idraulica sono sparsi un po' dappertutto. Ci sono le torri da cui tenere sotto controllo le piene, ci sono le chiuse, c'è il vecchio sistema fognario fatto di canali di scolo e poi ci sono naturalmente i fari, che vegliano sulle possibili insidie della costa adriatica. E questa, la pianura padana che affonda, quasi senza soluzione di continuità, nel mare. A Goro, la terra e le persone lottano con l'acqua. E nel secondo dopoguerra, tra gli anni 40 e 50, l'acqua non è la sola cosa contro cui devono combattere. Ci sono le conseguenze pesanti di un conflitto mondiale, ma c'è anche la voglia di vivere, di ridere, di ricostruire. C'è la voglia di crescere. E la piccola Maria Ilva Biolcati, classe 1939, non fa certo eccezione. Ha la smania di crescere e di scoprire il mondo che le sta intorno, ma prima di tutto, a quell'età, ha una voglia matta di ridere e giocare. La mia infanzia a Goro è stata un'infanzia di grandi giochi. Ho giocato tantissimo con le mie amiche. È stata una vita molto spensierata la mia, di bambina. È stata molto bella, fino a quando il mio papà non ha avuto dei motivi molto pressanti per vendere la nostra casa, e io di questo mi sono molto adombrata. Io ho detto, io in una casa dove ha vissuto un'altra famiglia di Goro non voglio andare, e andai a Bologna da una zia, e mio padre decise poi, dopo aver venduto la nostra casa, di andare a vivere a Bologna. Io dissi Bologna, Bologna va bene. Una settimana dopo cantavo. La passione per il canto, la piccola Maria Ilva, detta Milva, se la porta dietro fin da quando è nata. Quando non è impegnata a scorazzare in cortile insieme alle amiche, Milva gioca da sola, canticchiando tutto il tempo, inventando di sana pianta nuove e fantasiose sequenze fatte di parole e melodie. Non stupisce quindi che non appena si tratta di dare un contributo in casa per aiutare a risollevare la difficile situazione delle finanze paterne, Milva pensi subito di mettere a frutto le sue spiccate doti canore. Le balere della provincia emiliana, luoghi di svago così tipici di quegli anni, sono il posto giusto per esercitarsi nel canto. Milva in queste occasioni si trasforma in Sabrina. Ecco cosa ci racconta intervistata da Massimo Giletti a Domenica In. Senta, cos'è rimasta di quella ragazzina che si chiamava Sabrina? Cioè, dovete sapere, Sabrina era il nome, mi sembra d'arte, che fosse così, il d'arte. Il primo nome d'arte. Quando cantava nelle balere. Quando cantavo nelle balere, sì, perché ho cominciato di lì, avevo necessità di guadagnare subito, e sapevamo a casa, nella mia famiglia, che questo era il modo più veloce per monetizzare. Quanto le davano per una serata? Come dipende, dipende, anche 70.000 lire, per dire. Però? Beh, sì, avevo, non avevo ancora 20 anni, avevo 18 anni. Milva ha 18 anni, nel 1957. 70.000 lire allora sono davvero un sacco di soldi. E molto più dello stipendio medio mensile di un operaio o di un impiegato. La voce della signorina Biolcati deve valere davvero molto se c'è qualcuno disposto a sborsare tutti quei soldi per sentirla cantare. Certo, il fatto che Milva si trasformi in Sabrina per cantare nelle balere permette alla famiglia Biolcati di ottenere l'immediato sollievo economico di cui ha bisogno. Però la straordinaria voce di Milva forse è un po' sprecata in quel contesto. Quella voce può certamente ambire a traguardi più alti. E in quegli anni, se si vuole cantare o avere a che fare in qualche modo col mondo dello spettacolo, la strada da intraprendere è una sola ed è rigorosamente targata Rai. Poi feci il concorso delle voci nuove, nel frattempo ero a Bologna, diventavo più adulta e alla fine su 7.600 concorrenti della Rai lo vinsi, questo grande concorso. Milva, abbandonato il nome d'arte Sabrina, partecipa a un concorso per voci nuove indetto dal Rai, classificandosi prima. La vittoria le spalanca le porte del palcoscenico più importante, l'unico che all'inizio degli anni 60 possa decretare la fortuna di un cantante nel bel paese. Stiamo parlando, naturalmente, del palco del Festival della Canzone Italiana, il Festival di Sanremo. I primi anni naturalmente sono stati per me determinanti, soprattutto il primo, il 61, è stato per il festival che mi ha rivelato al grande pubblico, il è festival stato che il tuo mi ha, debutto. È stato il mio debutto dopo aver vinto il concorso delle voci nuove indetto dalla Rai del, sì. del 59 e di diritto finito nel 60 e di diritto andai a Sanremo. Sì. E presentai il Mare in Cassetto, arrivai terza e avvenne quella specie di così di come dire rivalità poi inventata dai giornalisti fra perché Mina cadde e io venni innalzata e così fummo nacque sì. questa rivalità sì, giornalistica sì. perché non, fu, non lo fu mai sì. dal punto di vista artistico sì. Questo è il mio mare, il mio mondo che sol di sogni vive, è il più bel mare del mondo. Questo è il mio mare. Una Milva poco più che ventenne sale sul palcoscenico di Sanremo a cantare Il mare nel cassetto. E non lo fa da sola. È in coppia con Gino Latilla, già star del Festival della Canzone Italiana. Latilla, infatti, è un veterano della manifestazione canora più importante del paese. Ha già partecipato all'edizione del 1953 col brano Vecchio Scarpone e ha vinto quella del 1954 con un inno all'istinto materno dal titolo Tutte le mamme. È tanto bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. L'esperienza di Latilla, già avvezzo al palcoscenico sanremese, infonde in Milva la dose di coraggio necessaria per affrontare la sua prima grande prova sotto le luci della ribalta. Certo, ha già vinto il concorso indetto dalla Rai per le voci nuove, ma Sanremo non è un semplice concorso. Sanremo è un trampolino. Sanremo è il lasciapassare per un futuro nel mondo dello spettacolo. E la giovane Milva non si fa certo trovare impreparata. Esegue il suo brano in maniera impeccabile e arriva terza. Arriva più in alto di Mina che con la sua Le mille bolle blu si piazza al quinto posto e decide da quel momento in poi di disertare per sempre la kermesse sanremese. Milva invece inaugura in quel 1961 una serie di partecipazioni al festival che la vedranno calcare il palcoscenico della Città dei Fiori fino al 1969. Ecco un brano di un'intervista realizzata dal giornalista Roberto Arnaldi per Radio Montecarlo. Milva, come affrontò una ragazza così che aveva una vita tutta diversa, differente, come affrontò questo mondo della canzone? Ma sì, avevo un mondo differente, l'ho avuto fino all'età dei 17 anni, ma dopo ho cominciato a cantare appunto a quell'età, per cui in un certo modo, forse sbagliato, ma c'ero già in quel mondo. Ma l'ho affrontato comunque con tutta calma e con tutta tranquillità, non sentendomi per niente improvvisamente diversa da come effettivamente ero. Milva sente di rimanere se stessa, mentre il successo la travolge tutto d'un tratto. Inizia a incidere moltissimi brani, affinando le sue straordinarie doti canore al punto da venire segnalata dalla critica discografica italiana come cantante dell'anno nel 1962. E la musica non è il solo campo in cui si cimenta. L'anno seguente, il 1963, la vede impegnata sul grande schermo. Ecco, fermati qua! Ah, certo che sei una gran rompiscatole con le tue trovate, sai. Dai, quanto la fai lunga! Ma come, pure lunga! E se c'è mi vieni a prendere stasera? Sì. Se no ripartiamo subito, va bene? Ciao, Veleo! Ciao! Dai, ma fa presto! Ma sì, prestissimo! Milva partecipa al film La bellezza di Ippolita, al fianco di Gina Lollobrigida ed Enrico Maria Salerno. Ma si tratta di un caso isolato. L'esperienza cinematografica, infatti, non ruba troppo spazio alla carriera di Milva come cantante, che procede a gonfie vele, sfornando un disco dopo l'altro. Tanti, tanti, ne ho incisi troppi, naturalmente. Cleo, Cleo, son due ore che vi Un arrangiamento sofisticato, sorretto da un poderoso quartetto d'archi come quello di questo brano dal titolo Cleo dalle 5 alle 7, apre a Milva una strada un po' diversa da quella della tipica cantante di musica leggera italiana. Milva si sta trasformando da una cantante che sforna 45 giri a tutto spiano a un interprete da collezione, che produce 33 giri molto belli e sofisticati. Tra questi c'è sicuramente il suo Canti della Libertà. E quel disco ebbe un enorme successo, anche il primo fu Le canzoni da cortile, sì, il secondo fu I canti della libertà e il terzo La crisi, sì. Erano dischi che si staccavano un po' dal mercato, cioè dalla canzonetta normale. Milva comincia ad affrontare via via un repertorio fatto di spirituals, gospel, canzoni di protesta. La musica cosiddetta leggera non le basta più. Lei si sente un'artista assai più onnivora e sfaccettata, in grado di aggiungere al canto sfumature e accezioni ben più complesse di quelle a cui si è abituati sui palcoscenici più pop. Per conquistare la nostra primavera, in cui sorge il sol dell'avvenire. Per conquistare la nostra primavera, in cui sorge il sol dell'avvenire. L'avvicinarsi di Milva a un repertorio più ricercato coincide anche con l'allargamento dei suoi orizzonti all'universo della recitazione. Non a quella cinematografica, però, che l'ha già vista impegnata e oltretutto l'ha parzialmente delusa. Milva è una bella, bellissima donna. E gli impresari cinematografici, evidentemente, in lei riescono a vedere solo questo. Un bel volto da incorniciare all'interno di un'inquadratura e all'occasione un'eccellente ugola a cui fare intonare qualche brano di colonna sonora. Ma Milva è molto più di questo. Milva, con quella sua folta chioma rossa come il fuoco e quei tratti somatici così marcati ed espressivi, ha un piglio da vera diva. Un atteggiamento e un portamento che sui palcoscenici non passa certo inosservato. E quando si dice palcoscenici, non bisogna pensare necessariamente a quelli della canzone. Si può pensare, perché no, a quelli del teatro. A introdurla è Alberto Lupo. Io do il benvenuto alla cantante Milva, ma anche alla mia collega Milva. Non tanto perché io sia riuscito a diventare mai cantante, ahimè, ma perché è lei che è diventata attrice di teatro e di teatro importante. Milva entra nel mondo della recitazione con la stessa naturalezza con cui era salita la prima volta in vita sua sul palco di una balera della provincia di Ferrara a cantare, ancora con il nome d'arte di Sabrina. Sul palcoscenico teatrale si trova perfettamente a suo agio. E così come era diventata nel giro di pochissimo tempo una delle voci più riconoscibili e apprezzate del panorama italiano, allo stesso modo si impegna tanto da diventare in breve una delle attrici più richieste su piazza, capace di spaziare fra i generi e i toni. Spettacolo leggero e pesante anche. Milva, nata come cantante di balera e arrivata sui palcoscenici teatrali, deve la sua evoluzione artistica a un incontro importantissimo. Quello con un regista teatrale che saprà forgiare il suo giovane talento per indirizzarlo verso nuove mete insperate. E da Varsavia la donna cosa il soldato regalò? Un bel bustino a colori, che bei colori a lei mandò. Questo da Varsavia arrivò. Milva, la pantera di Goro, che ha debuttato sul palco di Sanremo nel 1961 come una qualsiasi nuova leva della canzone pop italiana a metà degli anni 60, fa una svolta artistica notevole. La musica leggera non le basta più. Forse, a dire il vero, non le è mai bastata. Per prima cosa, Milva incide un disco di canzoni popolari italiane. Popolari non nel senso di leggere, ma nel senso di tradizionali, appartenenti alla tradizione musicale degli anni 20 e 30, a cavallo tra le due guerre. A queste canzoni da cortile, poi, affianca nel 1965 quelle della libertà. Canzoni che esprimono le forti idee e la volontà di emancipazione non solo della cantante, ma di un popolo intero. Poi, per allargare ulteriormente i suoi orizzonti, Milva si affaccia verso il suo pubblico esibendosi dal palcoscenico di un teatro. Un'evoluzione questa che non sarebbe mai stata possibile senza l'aiuto di un grande, grandissimo maestro. Stiamo parlando, naturalmente, di Giorgio Strehler. Mi dica la verità, si sente più a suo agio in questo genere di canzoni o nelle canzoni da teatro come quelle fatte in teatro appunto con Strehler? Ma non c'è una grande... c'è sempre un fondo sociale, un impegno in queste canzoni, cioè sia nelle canzoni della libertà, che sono molto più semplici e più popolari, che arrivano più dirette al pubblico. Le altre sono più impegnate, cioè sono più difficili anche per me che le devo interpretare, però mi soddisfano e riesco ad entrare in ambedue i casi abbastanza bene dentro questa atmosfera, cioè in tutti e due i generi, ecco, e mi piacciono ambedue. Milva, prima del 1965, non ha mai sentito parlare di Bertolt Brecht. Forse non ne avrà sentito parlare. Eppure un suo testo, a dire il vero, lo ha cantato in un disco, in quel Canti della Libertà in cui ha rivisitato con grande pathos vecchie canzoni di forte impatto sociopolitico. Le parole che sentite sono quelle di Der Kälbermarsch di Bertolt Brecht, letteralmente la marcia dei vitelli, testo satirico scritto sulla musica dell'inno del Partito Nazionalsocialista Tedesco, il partito di Adolf Hitler. Milva ne incide una versione proprio nel 1965, data che coincide con il ventennale della Resistenza, e poco dopo le arriva una telefonata che di certo non si aspetta. Dall'altro capo del filo c'è Paolo Grassi, che la contatta per prendere parte a un recital al Piccolo Teatro di Milano. Milva, che fino ad allora era salita solo su palcoscenici assai diversi da quelli teatrali, come quello di Sanremo, quelli delle Balere, accetta all'istante. Quella per lei sarà una sfida, sarà la svolta ulteriore di una carriera che non vuole affatto impostata nel solco della tradizione leggera italiana. Ascoltiamo la sua voce, intervistata dal giornalista Roberto Arnaldi. E cosa ha provato nell'affrontare questo genere e lavorare con Strehler? È una cosa straordinaria e adesso naturalmente voglio dire, è una cosa straordinaria, sì, e adesso dicevo prossimo anno, cioè a maggio, rifaremo l'esperienza di un altro recital, Break numero 2. Paolo Grassi, colui che ha preso il telefono e ha chiamato Milva per chiederle di lavorare in un recital brechtiano, altri non è che il cofondatore del Piccolo Teatro di Milano insieme a Giorgio Strehler, regista teatrale di fama internazionale. È proprio Strehler in persona a essere affascinato dalla figura di Milva e a essere fermamente convinto che quella ragazza dai lunghi capelli ramati e dalla voce imponente sarebbe perfetta per cantare il suo amato Brecht. Milva sa di non poter perdere l'occasione di farsi sentire dal maestro. Va al provino con lui, ci va tremando come una foglia. Lui sta seduto in platea, in fondo, seminascosto. Alla fine della performance di Milva, dal buio si alza una voce. È quella di Strehler in persona. Forse puoi fare Brecht. Certo, devi studiare. 10 giorni più tardi, Milva canta in un recital brechtiano diretto da Strehler, declamando con la sua voce possente le poesie e le canzoni scritte dal drammaturgo tedesco. Da qui in poi, da questo magnifico incontro con il destino, la vita di una giovane di Goro, provincia di Ferrara, cambia per sempre. Quella di lavorare con un nome così grosso, con Giorgio Strehler, uno dei più grandi registi teatrali del Novecento, potrebbe essere l'inizio di un'esperienza dall'impatto fortemente traumatico, almeno all'inizio. Ma Milva non la vede così. La vede in positivo. Sarà stata anche dura in principio, ma il palcoscenico del piccolo teatro per lei è stata la miglior palestra che potesse esistere. Streller è un genio del teatro e lavorare con lui è una grossa cosa, enorme. Ma io non ho avuto il trauma, ho avuto solo la possibilità di imparare tante cose. Quante parole, Johnny, non una vera, Johnny. Tu m'hai mentito, Johnny, dal primo giorno, Johnny. Oh, come t'odio, Johnny, quando mi guardi così. E smettila di fumarmi in faccia, porco. Il recital Io, Bertolt Brecht, che vede Milva e Giorgio Streller insieme a calcare la scena, ha tanto successo da venire immediatamente portato fuori dall'Italia in giro per tutta l'Europa. Milva, man mano, impara sempre più a comprendere gli affascinanti misteri del linguaggio teatrale. Streller insiste sullo straniamento brechtiano, sul restare assolutamente distante, fuori dai personaggi delle canzoni. Per Milva, all'inizio, è come se lui parlasse in cinese. Lei è stata abituata sino a quel momento a un approccio del tutto diverso, addirittura contrario. Quando canta una canzone ci mette sentimento, da tutta se stessa. Qui invece deve cantare senza muoversi, pronunciare le parole di una ragazza rivoluzionaria senza dare l'idea di esserlo. Ci vogliono anni di studio, di esercizio, di sacrifici. Lei è pronta a farli. Questo è il suo destino. La collaborazione tra Milva e Giorgio Streller prosegue nel 1973 con la celeberrima Opera da tre soldi, dove lei veste i panni di Jenny delle Spelonche, nascondendo le sue fluenti chiome rosse sotto un caschetto alla Louise Brooks. All'Opera da tre soldi seguirà poco tempo dopo il nuovo recital Io, Bertolt Brecht 2. Milva ormai calza perfettamente i suoi nuovi panni di attrice. Certo, all'inizio è stata dura, ma Streller l'ha rivoltata come un guanto, trasformandola in una delle più validi attrici italiane, capace di eguagliare sul palco le più grandi interpreti brechtiane, donne del calibro della grande Gisela Mai. Oh signori, voi mi vedete asciugare le posate di spariletti e mi date tre spiccioli di mance, guardate i miei stracci, questo albergo tanto povero e me, ma ignorate chi sono io davvero. L'esperienza brechtiana apre a Milva le porte di tutti i teatri, non solo quello impegnato. Nel 1968 avviene il suo esordio nel teatro di prosa con Il Ruzzante di Gianfranco De Bosio, che si rivela un tale successo da portarla nuovamente sui palcoscenici di mezza Europa a mostrare il suo talento. Teatro impegnato, prosa, ma anche commedia. Anche in questa l'eclettica Milva è capace di eccellere. Nel 1969, infatti, riceve la Maschera d'Argento per la commedia Angeli in bandiera di Garinei e Giovannini, lavoro in cui affianca un incontenibile Gino Bramieri. Ciao Milva, ciao. Fatti vedere, che meraviglia. Ma per te gli anni sono come gli autobus, non passano mai. Ma guarda come stai piena di frane, sembra una bagione. Una bagione, eh? Però devo dire, ti ho visto prima fare la peripa cosa lì, la sì, insomma, l'ha detta alla manutenzione erotica maschile. Perché? Ti pareva troppo? Devo dire, sì, non è che mi pareva, è che troppo poco, ecco. Ah. Sì, cioè, nel senso che eri troppo sofisticata, troppo, diciamo, quasi intellettuale per essere... Sì, come personaggio. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto insieme Angeli in bandiera, te lo ricordi? Certo. La famosissima commedia musicale, famosa perché c'eri tu, insomma. Io facevo l'angelo e tu facevi la pargola. Io ti insegnavo a fare la donna perduta e la facevi, che era una meraviglia, insomma. Perché vuoi dire che adesso mi sono redenta? No, voglio dire che prima, quando tu camminavi, sotto di te si sentiva il marciapiede, ecco. Ma scusa, poco fa il marciapiede non si intuiva? No, hai perso la mano, voglio dire, hai perso il piede, ecco. Sì, ma se tu mi ridai una lezione, posso tornare a perdermi. Vorrà dire di trovarti. Sì, insomma, come personaggio. Posso diventare forse più brava di prima. Proviamo? Certo che tu ne hai di presunzione, eh? Mm. Però contenta tu. Avanti, su. Rifacciamo la lezione. Passeggiare, passeggiare, passeggiare, passeggiare. È la base del mestiere, passeggiare, invitare. Sì, però senza adescare, dato il fatto singolare che la legge ti fa fare tutto quello che ti pare, meno l'atto di adescare. La commedia Angeli in bandiera supera le 500 repliche in tutto lo stivale. Se ormai il successo di Milva nei teatri d'Italia ed Europa è inarrestabile, ciò non significa certo che lei abbia abbandonato la strada della canzone e del canto. Dopotutto, è proprio grazie alla sua voce che ha potuto esplorare vie impensate, strade che all'inizio della sua carriera non avrebbe mai pensato di percorrere. Il 1972 è l'anno della cover in italiano di un pezzo portoghese della cantante di fado Amália Rodrigues. La versione di Milva si intitola La Filanda e diventerà il suo singolo più venduto in assoluto. Cos'è, cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché, perché, per il figlio del padrone facevi tentazione e venni insieme a te. Così, così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché. I magnifici destini. Un giorno lontano, quando ero innocente e tutta candore e virtù, se un tale veniva a farmi la corte, gli davo assai poco e mai di più. Cosa importava a me che fosse ricco, ben lavato anche al venerdì, e che educato fosse sempre come il fo? Io rispondevo no. Maria Ilva Biolcati, detta Milva, ha iniziato cantando nelle balere. Poi il destino le ha fatto incontrare Gino Latilla sul palco di Sanremo e soprattutto Giorgio Strehler sul palco del Piccolo Teatro. Da qui la sua svolta è impegnata. Da una parte Milva continua a seguire un percorso di tipo tradizionale, con la pubblicazione di numerosissimi singoli pop corredati dal relativo, immancabile presenzialismo televisivo. Dall'altro lato invece Milva propone un repertorio colto, importante, sostanziato dalle performance brechtiane e teatrali. Nella prima metà degli anni 70 escono due LP dedicati al mondo brechtiano curati da Giorgio Strehler in persona. Milva canta Brecht e Milva Brecht. Nel 1975 è la volta dell'LP Libertà, riedizione a 10 anni di distanza di quei Canti della Libertà con cui aveva coraggiosamente dato una svolta alla propria carriera, senza alcuna paura di appiccicarsi addosso una ben precisa connotazione politica. Beh, io sono... mi sento così come sono nata, cioè mi sento una figlia del popolo, mi sento veramente, assolutamente un antiborghese. E questo lo so perché sono convinta di esserlo, perché lo sono, non sono convinta di esserlo, perché lo sono e lo sento. Non ci si può improvvisare borghesi se non lo si è di nascita, di fondo. Dentro di me ho la terra, ho delle cose ataviche, se non si cancellano così. Le radici di Milva sono nel popolo e nella sua terra, ma il successo la porta ad andare molto, molto lontano dai luoghi delle sue origini. Cioè adesso andrò in Giappone per la quinta volta, per una tournée di 40 giorni, e sempre sono stati 40 giorni. Ho lavorato moltissimo in Germania, facendo delle televisioni molto importanti, a colori, facendo anche un recital su Brecht, appunto, per il terzo canale. Milva ormai è alla conquista del mondo. Spazia dall'Europa all'Asia senza apparente soluzione di continuità. E in Giappone non solo ci va, ma in giapponese all'occasione ci canta. Il successo a livello internazionale fa sì che i più grandi musicisti del mondo facciano a gara per collaborare con lei. Nel 1972 il gigantesco Ennio Morricone la omaggia scrivendo per lei un intero album dal titolo «Dedicato a Milva da Ennio Morricone». Gli inviti a lavorare insieme si sprecano. Scrivono per lei il compositore francese Francis Lai, autore della colonna sonora di Love Story, i greci Mikis Theodorakis Evangelis, gli italiani Iannacci e Battiato. Battiato, nel 1982, le regala quello che diventerà uno dei suoi successi più celebri e senza tempo, la struggente Alexanderplatz, ambientata in una gelida Berlino Est. Milva è commossa dall'idea che un puro genio come Franco Battiato abbia tanta smania di collaborare con lei. Oddio, è una cosa straordinaria che Franco abbia scritto per me due album. Considero Franco in assoluto il più grande musicista e poeta, perché non posso dire parole. Questo non si dovrebbe dire. La stima tra i due artisti è assolutamente reciproca. Devo dire che invece sono sempre rimasto molto contento di lavorare con lei, proprio perché non abbiamo mai avuto tensioni. E che il rapporto, lei è camaleontica, è capace di trasformare la sua voce veramente, se può cantare in qualunque modo. La collaborazione con Battiato è solo l'ennesimo tassello di una carriera brillante e sfaccettata, divisa su più fronti e in più luoghi. Il grande impresario teatrale Elio Gigante, già custode di molti talenti sia recitativi che canori, impegna Milva in moltissime tournée internazionali che la portano a ottenere grandissimi successi discografici sia in Francia che in Germania, dove vince numerosi dischi di platino. I tedeschi la amano, anzi la adorano, anche perché Milva non disdegna di cantare nella loro difficile eppure affascinante lingua. Ich hab keine Angst. Ich weiß mich zu wehren. Ich lass mir mein Ich nicht so leicht versehren. Il successo in svariati paesi l'ha portata ad ottenere riconoscimenti assai più prestigiosi di qualche pur importante premio discografico. Ospite di Massimo Giletti all'interno della sua trasmissione domenicale, Milva si sente elencare dal conduttore le conquiste raggiunte in anni di onorato servizio sui palcoscenici di mezzo mondo. Lei ha avuto tanto, perché per chi ci sta ascoltando in questo momento, la Legione d'Onore dai francesi. Sì. Commendatore in Italia. Sì. Cavaliere della Repubblica Tedesca, quindi sono il massimo delle onorificenze. È molto raro che i paesi stranieri diano onorificenze a personaggi che non appartengono. Una carriera lunga 50 anni, forse con un unico rimpianto. Milva ne parla con Paola Perego. Vorrei sapere da te qual è il più grande rimpianto della tua vita, se ce n'è uno. Sì, ce n'è uno. C'è. Dopo il collegio, di aver abbandonato lo studio della musica. Il fatto, quando io vado a vedere un concerto e vedo i musicisti che suonano, per me è una cosa meravigliosa. E chissà che la rossa Milva, partita dalle balere del bel paese e approdata all'Opera di Parigi, così come alla Orchard Hall di Tokyo, passati i 70 anni, non si metta anche a studiare il violoncello. Non ci stupirebbe più di tanto, dopo tutto. Su, vieni qui, Milord, accanto a me, Milord, se hai freddo il cuor, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, Milord, ti incanterò, Milord, tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, Milord, i tipi come te si trovano prima o poi, coi tipi come me.